Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, benvenuti a questa puntata dedicata a un libro di economia, ma soprattutto un libro di società, Aldo Bonomi, Sotto la pelle dello Stato. Buonasera Aldo Bonomi. Buonasera a voi. Aldo Bonomi, sociologo, fondatore e animatore del consorzio Aster, un grande osservatore delle trasformazioni della realtà italiana in questi ultimi anni, un osservatore attento di quanto sta accadendo. Questo titolo, Sotto la pelle dello Stato, indica in fondo un'osservazione che guarda appunto alla società, ai grandi cambiamenti che stanno avvenendo e che stanno operando, appunto, dei cambiamenti anche nel modo di guardare da parte di ogni singola persona ai problemi, ai rapporti sociali. E infatti il sottotitolo è Rancore, cura, operosità. Perché queste tre parole, Aldo Bonomi? Beh, le spiego partendo dal titolo della trasmissione, perché è vero che è un libro che parla molto di società, però parte dall'economia. E partendo dall'economia e dei grandi cambiamenti economici, strutturali, si sarebbe detto un tempo, io dico che la società italiana, ma non solo, ha attraversato negli ultimi 20 anni tre lunghi cicli. Primo ciclo, il fordismo, io cito lì, della Fiat, dei quaderni rossi, e il fordismo del conflitto tra capitale e lavoro. Poi un secondo ciclo è stato quello del capitalismo molecolare, il post-fordismo italico, che non è stato il toyotismo, è stato diffondere nelle piccole e medie imprese, nei distretti, la manifattura, quelle piattaforme produttive che competono nella globalizzazione. Il terzo ciclo che si è affacciato nel nuovo secolo è quello del capitalismo delle reti. Per capirci, capitalismo delle reti, la finanza, le infrastrutture, la logistica, quelle reti lunghe che sono necessarie per competere nella globalizzazione. In questi tre lunghi cicli è cambiata anche la composizione sociale, le forme dei lavori. Se prima era centrale l'operaio massa all'interno della fabbrica, poi sono diventate centrali la messa al lavoro delle comunità locali, le famiglie, tutti i distretti con la grande attività. Oggi come oggi invece il discorso del capitalismo delle reti rimanda anche a un processo di terziarizzazione dei ceti medi, l'economia dei servizi, la terziarizzazione della società. Quindi c'è stato questo grande cambiamento. Ecco, allora perché Sotto la pelle dello Stato? Torniamo al titolo principale del libro. Ecco, anche perché dentro questi grandi cambiamenti il meccanismo dello Stato si è, virgolette, diluito e ha assunto un altro ruolo. Nel libro io dico si è passati dallo Stato soggetto allo Stato funzione, quindi lo Stato che accompagna una serie di processi assolutamente importanti e muta il suo ruolo, e soprattutto dentro questo è cambiato il ruolo dello Stato provvidenza, del welfare, è cambiato il ruolo del welfare. E allora, sotto la pelle dello Stato, si vedono nella società, dentro questi grandi cambiamenti, alcuni grandi comportamenti collettivi. Alcuni grandi comportamenti collettivi che vanno oltre e non sono più spiegabili solo con le categorie classiche con cui abbiamo letto i grandi fenomeni di cambiamento. Le leggevamo con la categoria della classe, con la categoria della nazione. Faccio un esempio. Classe e nazione sono due parole che non riescono a contenere, ad esempio, un fenomeno nuovo che abbiamo affrontato nell'ultimo ventennio, che è quello delle migrazioni. Le migrazioni non si spiegano solo in termini di classe, e nello stesso tempo le migrazioni non si spiegano solo in termini di nazione. Siamo ancora qui che discutiamo se dare la cittadinanza per sangue o per suolo rispetto a questo nuovo cambiamento della forza lavoro, perché quella migrazione è parte del cambiamento della forza lavoro. Nello stesso tempo, dentro questo grande cambiamento, ritornano centrali alcune parole che nel Novecento avevamo dimenticato, come comunità e territorio. Perché ovviamente il capitalismo delle reti è un flusso che impatta nei luoghi, lo cambia, in mezzo c'è il territorio, si compete su dinamiche territoriali. Questi fenomeni sono stati quotati anche al mercato della politica, tanto per essere chiari, il territorio è diventato centrale per alcune forze politiche e quindi c'è stata una grande discussione, è entrata in fibrillazione la struttura siamo qui a discutere a 150 anni di federalismo, ovviamente, quindi è cambiato il tutto, e dentro questo grande cambiamento si possono individuare tre grandi comportamenti collettivi. Un primo comportamento collettivo è quello che, siccome manca la comunità, manca i luoghi di aggregazione, ci si aggrega anche per rancore, nel senso che è venuto avanti una grande voglia di rinchiudersi nel proprio territorio, leggere il territorio partendo da una logica che il territorio è di chi lo abita. Io dico che il territorio è di chi lo pensa e di chi lo vive, non solo di chi lo abita qui e subito in questo momento. E quindi ci si rinchiude di fronte allo spazio aperto della globalizzazione in logiche rancorose. Per fortuna, oltre a logiche rancorose, ci sono ancora risorse nella società che io chiamo della comunità di cura. Quando dico comunità di cura intendo dire ciò che rimane del welfare. Penso a tante professioni che hanno nel loro DNA il compito di creare inclusione, penso agli insegnanti, penso ai medici, penso agli psichiatri, penso a coloro che professionalmente si occupano di produrre coesione sociale. Ma non solo questo, la comunità di cura è fatta anche dentro il mutamento del welfare da tante imprese sociali, cooperative sociali, il volontariato, l'associazionismo. Non dico che questo è l'esercito dei buoni, dico che emerge una capacità di questa parte della società di produrre coesione a fronte del rancore. Ecco, ci sono tanti elementi in fondo, sì, che sono elementi positivi, elementi di aggregazione, di coesione sociale, come diceva, però resta in fondo, e un capitolo di questo libro è dedicato proprio alla città fragile, resta una fragilità della società, resta quasi un'indeterminatezza dei luoghi dove veramente poter avere una protezione, una garanzia, un riparo, un arrivo, un punto d'arrivo. È una società a cui mancano forse dei punti d'arrivo, Bonomi? Beh, io credo di sì, tant'è vero che penso che se la società viene letta solo ed esclusivamente da una parte i rancorosi impauriti, di quelli che si rinserrano per paura, e dall'altra parte la comunità di cura, non è sufficiente. Ci vuole la terza polarità sociale su cui ragiono, che è quella che io chiamo gli operosi. E torno da questo punto di vista all'economia. Gli operosi sono coloro che fanno impresa, coloro che fanno professione. Ed allora la questione di fondo con cui chiudo il libro è un interrogativo. Io dico che se gli operosi, anche gli operosi, prendono paura, e di fronte allo spazio aperto della globalizzazione, di fatto il problema di dover, di fronte alla crisi anche, parliamoci chiaro, il problema è che ci facciamo prendere dalla paura e ci rinseriamo, e c'è un'alleanza tra gli operosi che hanno paura e i rancorosi, andiamo verso una società chiusa. Ecco, invece bisogna auspicare, ed è l'auspicio mio, quello che io auspico e spero, il segno di speranza è quello di lavorare per mettere in connessione i segnali degli operosi che si aprono alle nuove sfide, ai nuovi grandi processi di cambiamento, al nuovo modo di fare professione, con la comunità di cura, mettendo assieme gli operosi dell'economia e coloro che hanno attenzione alla coesione sociale, forse la possiamo fare. Ecco, il libro si conclude però con una constatazione e un auspicio. In tutto questo discorso, scrive Bonomi, emerge la vera comunità assente, la comunità politica, e quindi le ultime parole: solo affido queste pagine alla comunità politica che verrà, sempre che verrà. La politica come elemento di aggregazione, come elemento di unità, come elemento in fondo per dare degli obiettivi e per dare delle speranze insieme a delle garanzie alla società, Bonomi. Beh, direttore, la politica come coloro che danno la visione, perché il vero problema è che si può costruire un'alleanza, un blocco sociale, si sarebbe detto nel Novecento, tra gli operosi da una parte e coloro che producono coesione sociale, di nuovo a fronte delle sfide che dobbiamo affrontare, di fronte alla crisi, di fronte alla globalizzazione, di fronte ai grandi cambiamenti che sono avvenuti a cavallo del secolo, nella misura in cui la politica riprende una capacità di visione. D'altronde abbiamo attraversato un periodo tremendo del Novecento come quello postbellico, con una capacità della politica di avere una visione per raggiungere degli obiettivi, e nello stesso tempo una capacità di chi faceva economia, di chi faceva società, di allearsi, di muoversi. teoria della politica di muovere. Il paese in questo momento mi pare un po' fermo e quindi manca questa capacità della politica di riprendere una visione. Questo ovviamente lo dico e dico questo è il compito che ci aspetta. E già avere un'analisi realistica, oggettiva, anche se un po' amara della società, probabilmente Bonomi è cercare di fare qualche passo avanti per risolvere questi problemi, appunto mettendo in luce anche le valenze positive. Io ringrazio Aldo Bonomi, sociologo, direttore e animatore del consorzio Aster, collaboratore del Sole 24 Ore. Abbiamo parlato del suo libro Sotto la pelle dello Stato, Rancore, cura, operosità, edito da Feltrinelli. Sono 186 pagine per 14 euro. Così come ringrazio in regia Roberto Scaltritti, in redazione Anita Panizza. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Grazie, buona lettura, buon sabato, l'appuntamento per la prossima settimana.